Senta, ma prima di venire a quella giornata, cos'era il 21 maggio? Che giorno era? 20 maggio. Prima ci tolga questo dubbio, ma è vero che il mantenimento del Fos Blu oggi è di circa 250.000 euro al mese che paghiamo noi dello Stato, insomma, visto che è sequestrato dallo Stato? Cioè questo purtroppo costa, sì. Cioè costa purtroppo questo, sì. 250.000 euro mantenere il Fos Blu? Sì, purtroppo sì. E come mai così tanto? I costi di gestione sono altissimi, anche perché, faccia conto, è un hotel a 5 stelle che naviga da servizi di super lusso a tutti i clienti che lo utilizzano. Un hotel a 5 stelle, lo stiamo, cari ascoltatori, lo stiamo pagando noi, diciamo, noi lo Stato, l'abbiamo sequestrato quel 20 maggio, 250.000 euro al mese costa. Senta, lei ovviamente era a bordo, no, del Fos Blu. Certo. Certo. Che è successo? Cioè... Guardi, quel 20 maggio eravamo propensi a dare fondo all'ancora in prossimità di Forte dei Marmi, nello specifico davanti al porticciolo del Cinquale, e mentre l'operazione di manovra di ancoraggio si sono praticamente gettate su di noi le sirene di due vedette di finanza. Accidente, cioè che è stato un arrembaggio, sì, comandante, no? Sì, esatto, è stato un po' traumatico, le dico la verità. Un po' traumatico. Anche perché avevamo ospiti a bordo, anche perché l'equipaggio non si aspettava di certo una cosa del genere, mi è compreso. Poi i cinque finanzieri che sono venuti a bordo, poi dei quattro hanno continuato con noi la navigazione fino alla Spezia, ci hanno notificato l'avviso di garanzia per sequestro preventivo e l'inizio delle perquisizioni. Sì, ricordiamo, è una vicenda legata, poi si vedrà questa, al pagamento di dazi doganali, accise sul carburante. Esatto. Senta, ma è vera anche questa vicenda? Raccontava Briatore che un finanziere ha fatto venire la moglie, come dire, ecco il trofeo che abbiamo preso a Briatore, o a Briatore comunque. Sì, un paio di giorni dopo il capitano della Guardia di Finanza si è recato a bordo visitando lo yacht con la moglie e il figlio, sì. Visto da tutti i membri dell'equipaggio, nonché anche dai finanzieri che stavano svolgendo le operazioni di perquisizione. Cioè che le è sembrato un po' un accanimento nei confronti, come dire, abbiamo preso il riccone? Più che accanimento, l'ho notata un po' inopportuna, ecco, dico la verità. Visto che eravamo in perquisizione, la barca sotto sequestro, l'ho rilevato un po' inopportuno.